Melog, il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Posta per te. Allora, lei si chiama Maria Teresa, lui si chiama Vito Nicola, lei ama lui e lui ama lei. Lui sta per chiederle la mano ufficialmente con la famiglia, scrive una lettera dicendo vengo il tal giorno, questa lettera viene intercettata, lei pensa che lui non l'ama più e poi scopre la verità. Peccato che sono passati 60 anni. Facciamo entrare Maria Teresa. Ciao. Come va? Bene. Stai bene, eh? Capita spesso di chiederci dov'è l'Italia. Ognuno si chiede secondo il suo punto di riferimento, secondo la soggettiva. Quello che lui vede per lui è l'Italia. Una volta avevamo un'immagine abbastanza comune dell'Italia perché guardavamo tutti la televisione. Guardavamo tutti la stessa televisione. Poi la televisione ha cominciato a differenziarsi e le Italie sono diventate tante quanti erano i punti di vista. Poi improvvisamente è venuta fuori la rete. Poi nella rete è venuta fuori la possibilità autonoma di costruirsi un network, di rappresentare se stessi, di esprimere un parere, anche a persone che mai nella vita avrebbero pensato minimamente di avere visibilità della propria faccia e del proprio parere. E quindi la televisione è diventata qualcos'altro, non raccontava più un'immagine comune del paese, ma raccontava l'immagine di un certo paese, del paese che la guardava, del paese che era osservato da quella televisione, rappresentato da quella televisione. Oggi generalmente c'è un atteggiamento, una parte snobistico, direi la televisione non la guardo, non l'acquisto, non la compro, sempre spenta, oppure guardo soltanto i bei documentari, i telegiornali, che mi importa. Oppure c'è l'atteggiamento di guardare soltanto un certo tipo di televisione, potrebbe essere Netflix, potrebbe essere i canali satellitari, i telefilm, le serie o i programmi che escono un po' dal circolo sacro della TV generalista. E poi invece, poi no, rimane l'Italia tenacemente attaccata alla TV di Maria De Filippi, alla TV di Bruno Vespa, alla TV di Massimo Giletti, che segue in una transumanza così ardita come quella di passare dal pomeriggio di Rai 1 al pomeriggio della 7. Beh, oggi parliamo di questa televisione, dell'immarcescibile luogo dell'immaginario comune che è la televisione generalista. Lei, già da quando aveva 9 anni, aveva sempre visto Vito Nicola, perché Vito Nicola era il figlio del signorotto del paese. E quindi lei, bambina di 9 anni, vedeva Vito Nicola sfrecciare sul suo cavallo nero per i campi, sfrecciava sul cavallo nero, è giusto, aveva un cavallo nero, ha detto così, sfrecciava col cavallo nero per i campi per raggiungere suo padre nelle varie piantagioni. Capita il giorno in cui è vicino a Vito Nicola. Vito Nicola la guarda, le dice buongiorno, giusto? Giusto. E dice tu sei quella ragazzina che guardavo sempre da cavallo. E Vito Nicola dice io mi sono innamorato di te. Lei dice non ci possiamo fidanzare perché tu sei ricco, io sono povera, tu sei un figlio del proprietario terriero e io no, e mio padre non può far la dote. Giusto? Barbara Cappi, sei tu la responsabile di questa roba? No, non sono la responsabile, sono una delle tante che collabora con Maria De Filippi al programma. E questo è, per esempio, questo che hai fatto appena ascoltare è una storia meravigliosa di quello che noi chiamiamo i primi amori. Sì, ma quindi, con la formaldeide li portate gli ospiti. Persone che si vogliono rivedere e giustamente dicono: ma dov'è finito il mio spasimante o la mia spasimante di allora? Sono passati 60 anni, 50, delle Quanti volte anni anche aveva di più. La signora in studio? Ah, credo un'ottantina. E la cosa meravigliosa è che gli occhi con i quali lei poi vedrà il suo pretendente di allora. Ma come si fa a rintracciare un fidanzato di 60 anni prima? No, c'è una redazione meravigliosa, insomma non è difficile. C'è una caccia all'uomo. C'è una specie di caccia a chi l'ha visto. Cioè questo si era salvato dopo 60 anni, lo venite a riprendere, lo riportate in studio. Sì. Lo invitiamo senza dire naturalmente, normalmente noi non diciamo mai chi ti manda a chiamare. Arriva un postino, ti suona il citofono e magicamente sì, ma c'è una formula meccanismo. Che c'è cioè, posta per te. La vecchia come la trovate? Il numero uno a cui si parte? Perché la storia è così. No, la signora, sì. Le persone che vogliono, hanno bisogno, ritengono che c'è posta, possa in qualche modo risolvergli un nodo della loro vita, che sia sentimentale, familiare, eccetera, scrivono. Telefono, ormai sanno che bisogna scrivere a Maria. Fai conto che ne arrivano dalle 3.000 alle 4.000 richieste al mese, ininterrottamente, 12 tutte mesi all'anno. Scritte a mano, naturalmente. Scritte moltissime a mano, moltissime via fax e anche col computer, perché poi anche la nonna può avere una nipote, oppure ormai è tecnologica, no? Facebook ce l'hanno moltissime. Quindi, diciamo, Maria è una anziane. Sorta di luogo della speranza. Laddove sì. Nessuno più spera di poter ricongiungere amori finiti, familiari con cui si è litigato, c'è Maria che mette tutto a posto. Non è tanto Maria che mette tutto a posto, è la capacità finalmente, anche se in un luogo piuttosto desueto, no? Perché è una piccola, io dico sempre che è come se fosse una messa pagana, c'è posta, quando registriamo c'è un silenzio e un'attenzione clamoroso, e nell'abbraccio di tutti quelli che, certo, partecipano si spera nel morire ending. In studio, cioè... Beh, dipende, voglio dire, ma non è mai successo, peraltro. No, ma ci credo, perché la gente è molto vitale, perché grazie a Dio, ha, sì, ha, diciamo, l'intraprendenza di uscire dal suo habitat familiare, dal suo circolo di conoscenze, e andare in televisione non è un passaggio poi così banale. No, ma sai che cosa? Non ti senti solo e ti senti confortato nel momento in cui tu chiedi o esigi o dici una verità. La difficoltà di farlo a casa propria è un mistero che si perpetra da ormai 20 edizioni di questo programma. A casa è difficile dirsi delle cose. Lì c'è qualcuno che ti aiuta a dirle meglio, c'è qualcuno che in qualche modo ti sostiene, c'è un pubblico che fa il tifo perché la giustizia prevalga nella questione privata che si viene a raccontare. Non ci sono riusciti i preti. Non c'è riuscita la politica, non c'è riuscita la psicanalisi, l'indagine del profondo, avere un effetto così dirompente di istigare le persone a tirare fuori dal loro rimosso questioni che mai direbbero a nessuno. Sì. E Maria è diventato questo. Sì, ma lei è assolutamente diventata questo. È aiutata anche da un fatto. È un avvocato penalista mancato, Maria. Non è riuscita a prendere l'abilitazione all'epoca, ma credo che giurisprudenza l'abbia molto aiutata ad avere, quando ha tutti gli elementi, a portare le parti a convenire a una soluzione. E questo è uno di quei pochi programmi dove io non vedrei altro che lei nella conduzione, nella direzione. Beh, tu ne sei infatuata, è chiaro. Beh, sì, posso dire, è delle poche che ancora mi insegna, mi stupisce, ha una logica che io assolutamente sento di non avere, mi sorprende, è abilissima e velocissima, non a manomettere i sentimenti, ma a farli combaciare come un grande puzzle. Onestamente si è mangiata tutte le sue colleghe della televisione italiana, è il numero uno, su questo è indiscusso. È indiscutibile. Se lei fosse qua e glielo dovessimo dire, si sentirebbe non a disagio, di più. Lei fa quello che sa fare. Ma lei è poco presente. Sì, lei appunto non è... Ma allora, cominciamo a fare degli esempi. Fra il durzeggiare e il Maria di Filippari, qual è la differenza? Nel trattare l'umanità. Lei è in sottrazione, Maria è assolutamente in sottrazione. L'altra, non è importante è esornazione. L'altra è dice quello che pensa e lo fa valere nel suo modo, nel suo splendore, nella sua luce abbagliante quando viene in televisione. Sì, come la Madonna. Ed è, sì, no, un'apparizione. Maria è in sottrazione, è in molti programmi, c'è ma quasi non la senti. Seduta sugli scalini. Hai capito? E questa secondo me è una grande forza. Perché non è Maria Show, non è protagonista, ecco perché può essere tante volte in televisione durante la settimana spalmata in orari diversi e con programmi diversi, perché c'è ma non la senti, quindi non vai mai in overdose, eppure ha una... io credo che se oggi si presentasse alle elezioni probabilmente vincerebbe. Ma potrebbe fare il Presidente della Repubblica, ma tranquillamente, magari. Figurati, ma non credo che le convenga, perché dovrebbe prendersi quest'onere. No, per carità di Dio, lei sa, ecco, fare quello. Andiamo avanti con la TV, diciamo, cosiddetta generalista, ma è giusto chiamarla ancora generalista? Esiste ancora TV generalista? Sì, penso assolutamente di sì, assolutamente. Beh, no, voglio dire, per quanto riguarda le produzioni che faccio con Maria, Tu sì che vales, c'è Posta, Amici, sono programmi che non hanno sentito il contraccolpo in questi anni di quello che in realtà, appunto, come dicevi prima, accade, cioè la scelta di farsi un proprio panorama televisivo ormai attraverso... Ecco, no? Però scusa, questo mi fa pensare, se non hanno sentito il contraccolpo... No. Vuol dire o il pubblico è molto longevo o c'è anche un ricambio, perché la signora di 80 anni che va lì, è chiara, comincia a vedere la televisione ai tempi di Mike Buongiorno, perché la televisione è rimasta quella. Verrà un giorno lontanissimo, speriamo, che la signora di 80 anni non sarà più davanti a un televisore, ma se questi programmi mantengono la loro centralità, il loro pubblico, i loro numeri di pubblico, vuol dire che comunque ci sono signore e signori che oggi hanno 30 anni che quella televisione guardano. E moltissimi giovani ancora, perché per quanto riguarda per esempio la sfera di Amici e anche di Tu sì che vales, abbiamo un panel di ragazzi sotto i 20 che è infinito. E come che se è anche fosse una forza commerciale è importante. La scuola dell'obbligo e poi arrivare all'università. Sì, sì. Sì, è come se tu fossi, in qualche modo sei un camino sempre acceso, e quindi chi passa in quella casa e ci passi col telecomando necessariamente, il camino attrae, in qualche modo ti ipnotizza. Poi vedi, come parli di televisione, esce ormai dall'ambito di un mezzo di intrattenimento, di spettacolo, di passaggio di informazione, diventa quasi un luogo liturgico. Tu ne stai parlando come una volta si parlava di andare a dire il rosario la sera in chiesa, oppure di fare il catechismo la mattina per i ragazzi. Sì, ed è il motivo per il quale lo facciamo con un'attenzione clamorosa. E quando la prima domanda che mi fa chiunque, ah, fai c'è Posta, ma su storie vere. Ma tu parli come una vestale ormai, non si otterrà da te un briciolo di messa in dubbio di tutto quello che stai facendo. No, beh, perché è la mia vita, nel senso che io ho scelto di fare un certo Sei tipo votata, di televisione. Votata questa televisione. Ma io voglio fare le Polaroid, e lo faccio con la migliore fotografa in questo momento, che è lei. Sai, tu hai scritto un libro che è uscito per Rizzoli, Le lettere di Anna, che è il seguito del tuo romanzo precedente. Ecco, ma come si fa a fare l'eroina di un libro, la sarta da De Filippi, la sarta di scena da De Filippi? Intanto perché il mondo dietro le quinte è qualcosa che, se guardi dal buco della serratura, incuriosisce tutti quelli che guardano la televisione. Ma voi le rivestite queste signore quando vengono lì a studio? Sì, da capo a piedi. Portano le loro cose e facciamo in modo che si sentano... Ma saranno povere cose di paese, gli rimettete le cose... Ma le povere cose hanno spesso una grande dignità e non è importante. Ma perché devono sembrare poveracce, devono sembrare... Devono essere loro stesse, devono sentirsi a loro agio. Il loro stesso non esiste in televisione. Ma come no? Ma è un scherzi, personaggio. Se tu... Vuol dire che non hai guardato l'anno scorso C'è Posta per te, non stai guardando Tu sì. Sono come li vedi al bar, come li vedi in piazza. Hanno i capelli messi a posto, ecco, ma ci tengono, attenzione. Ci tengono, è come quando vanno a fare visita, no? A una zia, e quindi ci si mette l'abito della domenica. È normale, è un rispetto verso chi ti invita. Ecco, come funziona la preparazione di un ospite? Tu, una volta la redazione lo individua, trova la signora, facciamo l'esempio, che cerca il fidanzato, leggete la lettera, dice beh, questa ci piace, una buona storia, telefonate, andate a vederla, studiate l'habitat. Di solito chi scrive viene in redazione da noi e incontra la signora De Filippi, ovviamente noi. Collaboratori. Allora chiamate voi in loco. Viene e viene in gran segreto rispetto a quello che noi diciamo il destinatario della posta, no? Viene, troviamo il motivo, il modo perché non venga mai a sapere, se è per il marito, il figlio. Se poi invece è una persona lontana, ovviamente la persona lontana non sa che quel giorno quella persona sta cercandola e sta venendo da noi. Ma se sono invece questioni private, più intime, più familiari, troviamo il sistema per cui... Cioè deve venire all'insaputa dei familiari? Assolutamente. Cosa si inventa? Una signora? Un lavoro, una chiamata, una visita medica. Un pellegrinaggio. Se ha dei bambini se li porta. Qualunque motivo che sia plausibile. E no? C'è quest'area di clandestinità. Clandestinità, ci si incontra e quando ci si incontra abbiamo quasi minuti contati delle volte, perché l'altra persona della famiglia non si insospettisca, se è normale che no. Molto spesso non hanno mai preso un aereo, non hanno mai preso un treno, e quindi organizziamo. Guardate, proprio a pescare, diciamo, le zone più lontane dalla civilizzazione. No, ma guarda, la civilizzazione non so quanto sia così positiva. Tu mi spungoli come fa Mamucari con la veniera. Infatti ma... lei si è arrabbiata, tu non te ne vai però, dai. No, io mi diverto da pazzi perché sei perché talmente... Perché sei arrabbiata la veniera con Mamucari? La veniera è una signora che ha fatto anche la storia della televisione, io la difendo con il suo famoso per esempio Domenica Inni, il suo non è un gioco quando lui la sfotte, non è un gioco. È un gioco, ma deve avere sempre un limite di decenza. Cosa le aveva detto? Si è arrabbiata? A un certo punto le aveva voluto dedicare una specie di marcia funebre e quindi lei ha detto superstiziosa. Beh, l'ha trovato di poco gusto e quella volta aveva un po' esagerato effettivamente. Poi ha fatto pace. Hanno fatto pace nella registrazione che abbiamo fatto ieri, che deve ancora andare in onda. Spoiler. Hai fatto lo spoiler. Ma Mamucari fa pace con la veniera. Titoli di testa di qualunque rivista. La gente non aspettava altro. Fermiamo un istante, tra poco con Barbara Cappi. Grazie. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Buonasera a tutti. Eccoti. Sta per cominciare il nostro programma preferito. Il nostro è anche il loro, vero giudici? Il nostro Gerry Scotti. Leo Mamucari. Il mio preferito. Ci siamo conosciuti 15 anni fa e 4 anni fa, solo 4 anni fa, gli ho chiesto di pattinare assieme. Sono fidanzati. Se sono fidanzati nella vita, state insieme? We are a couple, but sì, siamo una coppia, ma non ancora siamo fidanzati ufficialmente. Ah, vabbè, non lo diciamo a nessuno. No, perché lui... Non me l'ha ancora chiesto. E lo so, perché lui... Ma è brutta questa cosa, scusi. No, cioè, voglio dire... Cioè, che differenza c'è, quello Maria? Che fa il suo ragazzo non è una bella cosa. Cioè, state insieme, ma tu non hai ancora chiesto a lei... ufficialmente che state insieme. I wait the best moment. Sto aspettando per trovare il momento migliore. Questo è il momento perfetto. Now is the time. Scusa, e da quanto tempo stai aspettando il momento perfetto per chiederglielo? No, perché a volte lui glielo chiede ma lei gira la testa e non riesce allora a rispondere. Potresti metterti in ginocchio. Non è molto convinto. Stento a crederci, ma perché sono un inguaribile snob, vivo in una realtà alterata sicuramente rispetto al mondo. Ma veramente queste due persone vanno da De Filippi e lei gli fa dire che stanno insieme, cioè lui deve fargli la dichiarazione. No, erano due talenti clamorosi che sono pattinatori. Sì, sì. E ovviamente nel numero si capiva che lei si fidava ciecamente di lui e quindi la domanda normale che ti viene ma come fai a fidarti così tanto di lui? Forse è stato insieme nella vita, lui era un bellissimo ragazzo di colore, lei è una biondina molto gradevole. E loro sì, stiamo insieme. E a quel punto all'italiana. E quindi siete fidanzati? No, lui dice fidanzati, insomma non proprio. Perché per noi il fidanzamento, l'anello, le cose. E lui non gliel'aveva ancora chiesto. E quindi a quel punto l'Italia, che è ancora... Li costringe a fidanzarsi. Glielo chiede, gli dice ma perché non quale migliore occasione se non chiederle oggi ufficialmente vuoi essere mia fidanzata? Ma lui non ha accettato. Ma ci credo, erano felici, no, contenti. Lui meraviglioso ha detto, non mi sembra il caso, era un po' imbarazzato, ha detto, ma non mi sembra il posto, il luogo, il momento sono giusto. Sono due atleti, due artisti, pattinano insieme, ogni tanto si faranno una trombata, ognuno ha le sue storie, ma lasciali in pace. Perché devi far entrare in un discorso così antico, vetusto, non fidanzati? Non è che viene naturale, l'anello. Mara chiede e tutti si innamorano dell'idea che lui possa mettersi in ginocchio, alto, 1,90 m, un Cristo meraviglioso, su dei pattini, slitta giù e dille vuoi essere mio amore, sarebbe stato un tripudio, però tanto sono passati e non hanno ceduto ma andranno comunque. Ma come se avessero ceduto, ne stiamo parlando sì, pochino, quindi tutti penseranno vedi dobbiamo fidanzarsi perché non gliel'ha detto. Certo, a me è dispiaciuto, per esempio io sono romanticissima, quindi vorrei che tutti dicessero continuamente ti amo e in quel momento, ma mentre se lo dicono lì, ogni tanto quando si ma ama. Mi piace guardare mentre uno se lo dice, mi piace emozionarmi lì e dire beati loro. Fammi capire allora. Questo tipo di televisione, ricordo, sto parlando con Barbara Cappi, che è una storica autrice televisiva, lavora molto con Maria De Filippi, tanto che ha già scritto due romanzi sulla costumista dei personaggi di Maria De Filippi, poi passerà alla parrucchiera, poi passerà, non lo so, boh, all'ustrascarpe. No, no, sarà sempre Anna, perché Anna ha solo tutto. 50 anni, deve viverne almeno altrettanti, e io voglio invecchiare con lei. Quindi noi nel secondo romanzo è proprio, tu hai detto la costumista, la truccatrice, il parrucchiere. No, è una famiglia che si allarga, come in tutti gli ambienti di lavoro. Quando tu a casa ci vai poco e sei solo e vivi con un gatto, è evidente che in qualche modo ti puoi affezionare e creare una nuova famiglia, no? Cioè, dove mangi lavori? I paninoli nel retrobottega dello studio, i capelli te la fa la parrucchiera, esattamente, e però intanto senti, se fatti ti si scuce una gonna te la ricuce la sarta, è una, si danno conforto oltre che grande, come dire, una grande mano sul lavoro, ma soprattutto un conforto, un vedi, siete umano. Un ordine monastico a questo punto. Ah, io senza la famiglia che ho dietro le quinte dei programmi dove vado, e la cosa meravigliosa è che facendo tanti programmi le famiglie spesso cambiano, e quindi tu allarghi i tuoi parenti e conosci tanti mondi. Quindi è rimasto il luogo residuo dove ancora qualcuno realizza sogni alla fine, perché dov'è che si realizzano i sogni? Se vince al super enalotto, giusto questo, succede sempre agli altri mai a te. E quando riesci a coronare un tuo desiderio, che vai in uno studio della TV che appunto promette e poi mantiene per qualcuno. Sì, beh, promette non lo so, sicuramente ti dice noi facciamo questo e se vuoi, quindi se tu sì che vales, noi abbiamo un palco sul quale ti puoi esibire, in qualche modo puoi far vedere il tuo talento. C'è posta, hai un problema, vuoi venire a provare a risolverlo, noi siamo lì per quello. È un servizio reciproco. Ecco, vediamo di capire, definire le entrate generazionali in questa sorta di tempio della felicità. Diciamo, la gente, le persone più age giocano sul ricordo, il luogo della rimembranza. La nostalgia. Sono gli ultimi colpi di nostalgia prima dell'eterno oblio, qualcosa del genere, no? È una TV liminare, una TV crepuscolare. Sì, ma ti tengono tanto compagnia, ricordi? Certo, eh? Sì, sì. Nel senso, c'è ancora il programma pomeridiano con i vecchietti che ballano. Parli di uomini e donne. Sì. C'è, ed è un grandissimo successo. Beh, quella è stata un'idea geniale. Assolutamente. Ha riportato il clima del centro anziani come format televisivo. Sì, lì la signora De Filippi ha avuto un'illuminazione clamorosa in tempi in cui gli anziani dicevano non vogliamo vedere gli anziani. No, ma erano banditi a televisione. Ti ricordi? Ma lo stesso cinema, no? Non si vedevano. Le attrici e gli attori anziani difficilmente, se non avevano delle parti particolari, ma se no era difficile, perché si diceva che chi ha le rughe non volesse vedere chi. E invece è proprio il contrario. È una balera nelle case, ma è anche un luogo di incontro. Questo è veramente controcorrente. Nell'epoca del Botox, in cui palesemente nessuno si rende più conto degli interventi artificiali nelle fattezze umane, e c'è tutta una schiera ormai di zombie rifatti, maschi e femmine, che stanno lì come se niente fosse, lei ha ripattato fuori il piacere, la lussuria del graduale degradarsi della figura umana. C'è anche una cosa che è cambiata, è l'aspetto dell'amore della terza età. Grande tabù, non se ne parlava. Era un tabù pazzesco, tua nonna e tuo nonno, ma guai! Nessuno poteva mai immaginare. Mai, e soprattutto se eri a un certo punto vedovo, finiva lì la tua vita. Basta. Sentimentale, sensuale, eccetera, eccetera. E invece i nonni sono attizzati come babbuini a dirgli vieni a tenermi lì, sì, tuo nipote. Ci hanno sempre da fare, ma meno male, perché stiamo diventando nonni, anche io e te, sai. Anche la chimica fornisce dei supporti che una volta non esistevano. Sì, ma guarda, devo dire che le persone di uomini e donne, io non so se vanno di chimica. Le prove con tutti, ma dai. Fanno di chimica, sono lì sempre sulla corda, e li vedi. Poi è molto divertente quello. Vuol dire che ci vuole un grande acume, perché andare a capire che nei luoghi che si immaginava residuali, il centro anziani, sempre qualcosa, la gente passa avanti a testa bassa e spera di non andarci mai, in realtà è il luogo della vera libertà, finalmente liberi di fare quello che voglio. Bravo. Di fare quello che voglio. L'ha capito, era difficile capirlo, ma l'ha capito. Ma è incredibile. Non è che si va al clubino degli scambisti a vedere la libertà, vai al centro anziani. Ma quando tu mi dici no, sei devota, non è una questione di devozione, è proprio che riconosci un talento nel coraggio di proporre delle cose quando nessuno le fa. in tempi magari non sospetti, e poi ha ragione lei, e quindi tu alzi le mani e dici: ma insegnami ancora. Quindi diciamo, allora, quella fetta di umanità si vede rappresentata in ciò che veniva considerato irrappresentabile, anche indicibile, nella voglia, nella passione, nel voglia di divertirsi, nel desiderio, nel cercarsi, e rivivono attraverso quei protagonisti che vanno in televisione quelle che sono le loro forze, le loro vite, i loro turbamenti, le loro passioni. E il domani è bellissimo questo, ma domani mi telefonerà, domani mi vedrà, domani mi vorrà ancora. È questa la forza per una persona ormai adulta, grande, grandicella, se non anzianissima, di dire: c'è ancora un domani, mi emoziono ancora, attendo, ho le mani sudate, e sì, mi ha portato fuori a cena. Io lo trovo meraviglioso, io non vedo l'ora di invecchiare. Non so se te lo ricordi, ma succedeva così anche quando avevi 15 anni, però. Appunto, ma a un certo punto ti dicevano: quella roba non fa più per te, e invece... Vabbè, lo dicevano gli altri, ma nessuno si rassegnava mai. I rassegnati erano sempre tristissimi. Beh, invece quello che mi interessa è capire un po' anche le generazioni meno attempate. Ma lo vediamo fra un istante, dopo la pausa, perché voglio capire anche come fanno a entrare i giovani in questo tempio, che finora mi sembra un tempio più destinato alle rimembranze, ma se ci entrano i giovani vuol dire che ci entrano anche quelli che hanno grandi speranze per il futuro. Vediamo come riesce in qualche maniera a dare corpo a queste speranze. A tra poco. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Melog. Posso fargli recitare una poesia? Memorizzalo, è una frase sola. Poi guardi Vanessa e gliela dici. È una frase sola. Memorizza, non leggerla. Vai Mario. Sì, sta come d'autunno. Gli alberi, le foglie. Che hai detto? Si sta come? Si sta come, virgola, d'autunno, virgola, sugli alberi, virgola, le foglie. Quindi che mi hai detto in pratica? Che magari, se stai conoscendo, forse autunno è il periodo, la stagione migliore. Dai, si sta come? No, no, si sta, non è il nome. Di chi può essere questa poesia? Soldati. E c'è scritto ma soldati sopra. È il titolo della poesia. Ah. Scusa, sorry. Gentilissima. Pure complimenti, sei tutte belle ragazze. No, era un provino un po' vintage, di qualche anno fa, un provino per amici, ma servì alla prova di cultura, non credo che fosse fondamentale, no? No, ma vabbè, adesso io non veramente questo stato. No, ma roba, tu ancora andavi al liceo, cioè, quando sì, ho fatto grazie. Questo provino, dai. No, per esempio, però, parlando, stavamo dicendo prima dell'interruzione, della televisione per quelli più giovani. Allora, per o con quelli più giovani? Amici, quando va in onda, per i numeri che fa, non è solo per i giovani, se no sarebbe un ascolto molto più ridotto. E anche quello raccoglie ovviamente... Quindi lo guardano i genitori per capire i segreti dei figli che non riescono a capirgli. Beh, tutti quelli che hanno dei figli adolescenti o qualcosa di più, in qualche modo vedono che cosa realmente potrebbe volere nella sua cameretta suo figlio o la figlia. Quando dice: voglio fare la cantante, voglio fare il ballerino... E da noi c'è una cosa importante: vuoi fare una cosa, non arriva perché così dal cielo, ma devi avere un senso del sacrificio e del lavoro immenso. Vabbè, sembra l'addestramento per la legione straniera. Beh, guarda, non sembra, ma la scuola di amici è tostissima. Quelli Quindi che la ci scelta stanno degli insegnanti sadici è voluta. Beh, voglio dire, non è il sadismo è nel momento in cui tu hai una possibilità e degli strumenti straordinari che a casa tua a Vigevano, piuttosto che a Campobasso, certo, non avresti. Hai il migliore insegnante, hai una scuola con tutte le sale modernissime per fare musica o ballo. e non ne approfitti e dormi in casetta. No, no, giusto, che non sì, va. Però devi avere come modello Full Metal Jacket, non devi avere una scuola di ballo, e sapere che troverai davanti una persona che ti spremerà, ma se uscirai sarai invincibile, però se non ce la farai finisci male. Beh, vuol dire che non eri maturo, non è detto che non sia perché no, no, tu non abbia talento. Finalmente, penso che sia una questione di maturità. Ma finalmente, sai perché? Perché noi eravamo ancora rimasti al modello Zecchino d'Oro, che erano tutti bravi, tutti carini, le miss sì piangono, sono tutte belle, le mamme, cioè finalmente un po' di selezione. È una selezione naturale, vengono in migliaia, decine di migliaia ai provini. Ecco, parlami di un provino di amici, come funziona? Io non li seguo personalmente perché faccio altro durante quella fase, ci sono dei miei colleghi e niente, vengono e portano i loro cavalli di battaglia cosiddetti, con la preparazione che hanno fino al momento in cui vengono a fare il provino. Quindi qualcosa hanno già fatto? Sì, c'è chi ha preso qualche lezione, c'è chi non ha, che è autodidatta, c'è chi invece chi ha fatto da dei zero, stage poi. Sì, assolutamente, che è solo puro istinto, ma magari ha una voce pazzesca o assolutamente una dote. Quindi sua la scuola della... è seria, non è, lì non è fiction, la scuola la che fanno poi è seria. La scuola è proprio seria e sono mesi tosti per quanto loro. Quanto dura un periodo? E beh, fai conto che cominciano a ottobre, adesso noi andiamo in onda da sabato questo, sabato 18 mi sembra. Sì, sabato 18 c'è la prima diretta in cui presentiamo, in cui Maria presenta appunto i primi, poi piano piano si dipaneranno con sfide di nuovi ingressi di cantanti. E per quel periodo loro vivono in una specie di hotel, come funziona? Vanno in, sì, sono in un hotel e lavorano di giorno e tornano a dormire, invece hanno il cellulare, insomma, come sono, fare il militare, però con la stessa cosa sono è come un, appunto vai a scuola e torni in una casa, siccome vivi lontano ti diamo una casa diciamo senza telecamere, però a questo punto fino alla fase del serale che sarà a aprile, dove invece passano quelli migliori secondo i maestri di scuola. E a quel punto si disputa quella che è la grande kermesse del serale, dove naturalmente ogni tua esibizione vale tanto sacrificio, ma anche tanto coraggio. Sì, però ce l'hanno fatta e tanti. Bravi. Non è una cosa... Mentre chi vince Festival di Sanremo non si sa se farà poi carriera o sarà ricordato, quelli che passano dalle Filippi ne rimangono parecchi poi nel giro. Sì, grazie a Dio ne rimangono parecchi. E guarda, tutta la parte del ballo, che è molto meno lampante ovviamente di un cantante, perché no? Sì, così a meno si sa. In realtà hanno il 90% lavorano tutti in straordinari gruppi di ballo nel mondo, quindi questa è la soddisfazione più grossa. Gli è stato dato uno strumento, l'hanno utilizzato bene, hanno... fortuna. E beh, anche su questo devo dire che un'intuizione l'ha avuta, perché vedere un'accademia di danza, sentire un ragazzo ci vado a ballare, era qualcosa che si consumava nella quasi clandestinità. Sì. Oggi non c'è periferia d'Italia che non ci abbia il suo garage dove comunque la gente va a ballare. Sì, assolutamente, e a tutte le età e con tutte le taglie a disposizione, se hai le gambone ci provi comunque, è un'espressione del corpo, ti porta felicità, benessere, come il canto, il coro degli alpini, ci andavano, era terapeutico, i nostri donne si trovavano e continuiamo a cantare, continuiamo a ballare, ma questo è proprio dell'Italia, più quella che voi dite, il paese, la provincia, si balla dovunque. Si balla sempre e si canta nel karaoke, si canta nelle piazze, non si ha nessun tipo di pudore e secondo me vivono molto meglio di noi che siamo topi da città. No, sto pensando, noi siamo partiti con questa premessa, ricordo Barbara Cappi ha scritto Le lettere di Anna, lo diciamo ancora una volta, che è il suo secondo romanzo sulla costumista di Maria De Filippi. La sarta, che è diverso, perché la sartina è quella che proprio è l'invisibile, nessuno la conosce, nessuno sa neanche il nome. È quella che ti rattoppa il vestito, se è largo ti ci mette dietro una cucitura. Sì, sembra però cura i dettagli tuoi, non cura mai i suoi. È un aspetto, guarda, è tutte le produzioni che io faccio, insomma oggi ho 50 anni, ho cominciato che ne avevo 19, è la figura che mi ha sempre più incuriosito, perché è talmente discreta, ma è talmente quella che era raccoglie i segreti di ogni stanza. Beh, quella che gira con tutti gli aghi infilati nella vestaglia. Sì, e non ha mai età, no? Sì. Perché non si trucca, non si fa la tinta, è di solito veramente di grande modestia, eppure dietro le sarte che io ho conosciuto e tutte mi hanno suggerito questo personaggio inventato, ma che comunque racchiude quelle che sono le qualità umane che sono straordinarie, la riservatezza e la sensibilità. Quindi tu ci stai dicendo che dietro la TV generalista, che sembra un grande spettacolo fatto per il conforto e per la speranza delle persone che ancora vedono nella televisione qualcosa di vitale, in realtà pulsa, pulsa umanità, esiste. Beh, l'ha fatta da uomini, scusa Gianluca, da uomini e da donne. No, non lo pensa questo. È per quello che è il bello del backstage, chiamiamolo così, del dietro le quinte di un programma, perché c'è proprio una carovana di persone con le loro storie, i loro casini, le loro occhiaie, ogni tanto anche qualche sclero, però è un ingranaggio di grandissima umanità. Io non potrei sperare di lavorare in un posto migliore. Vabbè, hai realizzato il sogno della tua vita, il tuo immaginario di fanciulla è stato realizzato. Vivi nell'unica grande famiglia che ha ragione di esistere, perché oggi al di fuori la famiglia ormai è scomparsa. Insomma, è tosta. Chi va a cercare la famiglia naturale invece di andarla a cercare per le piazze o per le parrocchie, forse farebbe bene andare in qualche studio televisivo e troverà quel palpito che ormai sembrava perduto. Sì, vabbè, voglio dire, noi facciamo anche degli orariacci, per cui insomma non è tutto così rose e fiori. C'è un grande lavoro, però c'è una grande, appunto, grandissima umanità. Lo so, ma la via della felicità è piena di sofferenze. Ciao Barbara Cappi, alla ciao. Prossima. Ciao a voi.